Madonna puttana. Ma che cazzo rompono coglioni, ma vaffanculo. Sì, pronto? Ehi, ciao. Thank you. We'll be right back. Thank you.